Letture di Radio 24. Si intitola Walter e io, il libro che Simone Annichiarico, attuale conduttore di Italia's Got Talent, dedica al ricordo di suo padre, l'indimenticabile Walter Chiari. Una delle grandi passioni del comico milanese erano i libri. Quando si immergeva nella lettura, ricorda suo figlio, Walter entrava in una dimensione parallela e non c'era nulla che potesse distrarlo. Nemmeno quando nel 1978 l'aereo che doveva portarli ad Olbia era arrivato a Fiumicino con diverse ore di ritardo e non accennava a voler partire. I passeggeri erano furibondi, ma lui, incurante di tutto, continuava a leggere. La situazione si fa drammatica. Passiamo un'altra ora nella pancia dell'aereo fermo sulla pista. Alla comprensibile ira dei passeggeri si aggiungono voci incontrollate sul motivo del ritardo. Chi parla di sciopero dei fornitori di carburante, chi di guasto tecnico, ma la voce più diffusa vuole, classicamente, una bomba nell'aeroporto. Il babbo, che fino ad allora era in stato di narcolessia da lettura, finalmente si desta, si toglie gli occhiali, li ripone nella custodia di pelle, mi fissa e con un accenno di sorriso mi dice: «Che succede? Perché sono tutti così incazzati? Che c'è da urlare tanto?» E nel mentre si guarda intorno incuriosito come se fosse allo zoo. «Papà, sono quasi le 4. Dovevamo partire a mezzogiorno». In tutta risposta, lui si guarda il polso in cerca dell'orologio, che non ha mai avuto. «Ma va? Già le 4?» Ancora uno sguardo ai passeggeri imbufaliti. «D'accordo, saranno pure le 4, ma io con questo casino non riesco a leggere». Avete capito bene, lui con quel casino non riusciva a leggere. Eccola la sua preoccupazione. Ecco cosa faceva di lui un uomo libero e diverso. Non era né un pastore che si preoccupava del suo gregge, né una pecora che belava in coro. Era un ramingo, un errante. Era davvero se stesso. Ma ormai la folla inferocita aveva destato il povero ramingo, che voleva solo leggere in santa pace. Quello che segue non è frutto di fantasia, ma è un'esperienza che io ho davvero vissuto. Non è un sogno, ma pura realtà. Walter si slaccia la cintura di sicurezza, mi guarda, si lamenta ancora di tutto il casino e si alza. «Dove vai, papà?» Senza rispondermi, il babbo si incammina lungo il corridoio e raggiunge la cabina di pilotaggio dove confabula per pochi secondi con piloti e steward. «Grande, papà», penso. «Adesso gliene dice 4 e partiamo». Mi rilasso, guardo fuori dal finestrino e pregusto il decollo. Ma qualcosa mi strappa la pia illusione. Una voce familiare, proveniente dall'altoparlante. «Signore e signori, benvenuti sul volo Alisarda-Roma-Olbia. Sono il vostro comandante, Walter Annichiarico. Permettetevi di darvi alcune piccole istruzioni per il volo, se ci sarà». Non potevo credere alle mie orecchie. Aveva preso il microfono di servizio e stava parlando dal fondo del corridoio con in testa un berretto prestatogli da un pilota. Fu sufficiente un nanosecondo. Non solo tutti i passeggeri ammutolirono, ma l'umore collettivo mutò drasticamente. Erano come drogati, con la bocca semiaperta. Walter Chiari, vestito da pilota, aveva iniziato lo show. Come prima cosa si mise a ridicolizzare le norme di sicurezza, facendo prendere a tutti i passeggeri il cartoncino rigido delle istruzioni, in caso di pericolo, e commentando tutto, dalle illustrazioni fino alle maschere dell'ossigeno, su cui fece una battuta che ancora ricordo. «Bene, signori, e se l'aereo dovesse ballare, quale migliore occasione per tirare fuori la vostra maschera a ossigeno e fare un bel ballo in maschera?» Il tutto imitando movenze e toni degli steward. Parlava con la stessa robotica inflessione vocale, si muoveva come loro per indicare le uscite di emergenza. La gente era in delirio, ridevano come pazzi. E lui in quelle occasioni era un vulcano, libero, senza censure, senza contratto, senza compenso. Lui per tutti i passeggeri e tutti i passeggeri per lui. Vi giuro che nessuno in quel momento ricordava di stare su un aereo di linea in partenza. Non solo aveva capovolto la situazione, l'aveva portata su un piano diverso di esistenza. Era intervenuto sullo spazio e sul tempo senza alterarli, ma dando a tutti l'impressione di qualcosa di magico, sospeso, fantastico. E la cosa durò parecchio. Il Walter continuava. «Signori, se vedete che uno o più motori prendono fuoco o vedete un'ala lentamente sfaldarsi per un cedimento strutturale con l'aereo che precipita avvitandosi su se stesso, non vi preoccupate. Sotto le poltrone ci sono giubbotti salvagente. Siete in una botte di ferro». Era geniale. Stava andando a braccio, mezz'ora di improvvisazione sul mondo degli aerei. e la gente moriva dal ridere. Rideva persino lui, battuta dopo battuta. Poi a un certo punto è giunto, finalmente, il momento della partenza, quella vera. Si avvicina uno dei piloti e dice qualcosa al babbo, il quale saluta i passeggeri con un inchino e dice: «Signore e signori, ecco che si parte. Il vostro comandante vi saluta e vi augura un buon volo. Ah, dimenticavo, passerà mio figlio col cestino delle offerte. Grazie a tutti». La gente esplode in un'ovazione, qualcuno si slaccia le cinture per applaudirlo in piedi, come fossero a teatro. Ora poteva riprendere la lettura. L'aereo rulla e decolla. La gente ancora mormora. Chi lo cerca con lo sguardo? Chi lo rivorrebbe sul palco? «Dai, Walter, diccene un'altra!» Poco dopo succede l'impensabile. Il capitano, quello vero, annuncia che possiamo slacciare le cinture di sicurezza e chiedere al capitano in seconda, Walter Annicchiarico, di tornare al microfono. È il boato. «Walter, Walter!» Tutti impazziti che gridano. Qualcuno si alza e lo prende sotto braccio. Lui non si fa pregare e torna al suo posto. Stavolta il repertorio è quello classico e la gente va in delirio. Quanto a me, guardavo il cielo sopra il Tirreno e ascoltavo la voce di mio padre che si fondeva con i riflessi del sole sull'acqua, si perdeva tra le nuvole e scendeva giù increspandosi insieme alle onde del mare. Era una sensazione bellissima. Mi sentivo un privilegiato, una persona fortunata. Ero felice. Lui intanto fa l'ubriaco, il balbuziente, racconta e racconta fino all'inevitabile richiamo del comandante, si atterra. Altro passaggio trionfale lungo il corridoio, alla fine del quale si siede e mi fa: «Dovrebbero prenderla sul serio questa cosa. Hai visto come si sono divertiti? Le compagnie aeree dovrebbero scritturare dei comici per allentare la tensione durante i viaggi. Pare funzioni». Non ci sono dubbi. Quell'uomo ha sedato in una frazione di secondo una folla inferocita, frustrata, stanca, che non aspettava altro che levarsi dai coglioni la città e tutto il malessere che essa provoca. E non solo l'ha calmata, ma l'ha portata in pochi secondi in uno stato di benessere permanente, fino all'addio davanti al piazzale dell'aeroporto. Un viaggio che poteva rimanere nella memoria dei passeggeri come l'ennesimo calvario estivo è stato trasformato nel viaggio da ricordare. Non potrò mai dimenticare come lo guardavano tutti. Erano davvero tornati i bambini, l'avvocato, l'industriale, la vecchina sarda, il pilota, le hostess, tutti con un sorriso infantile, quasi ebete. Tutti volevano una sua battuta, una parola. Non lo mollavano più. E non lo sto raccontando in tono enfatico, da figlio infatuato del padre. Era davvero così, ve lo posso garantire. Se devo dire la mia, il babbo, un bel 10 sulla casella carisma, se lo meritava davvero. E spesso penso a quanta fortuna abbiano le persone che incontrano i 10 in carisma, sempre che questi mettano il loro carisma a servizio del bene, perché il carisma usato male porta all'egocentrismo, all'egoismo, alla vanagloria. Insomma, si diventa piccoli o grandi dittatori. E come ho già detto, Walter non era né un pastore né una pecora. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Simone Annicchiarico, Walter e io, ricordi di un figlio. Baldini e Castoldi Editore, 181 pagine, 18 euro. Dai terreni confiscati ai mafiosi nascono cooperative che offrono opportunità di lavoro per i giovani. Le difficoltà non sono poche e la mafia tenta in tutti i modi di infiltrarsi per rientrare in possesso dei propri beni. Ma alla fine le buone pratiche riescono a produrre lavoro e legalità. Togliere i beni ai mafiosi per restituirli alla collettività è un nobile principio, ma riuscirci è ben altra cosa. All'inizio sembrava una cosa impossibile. Ora il sogno è diventato realtà. Così paesi come Corleone e San Giuseppe Iato non sono più la patria dei Riina e dei Provenzano, ma i protagonisti di una vera rivoluzione che prende il nome di Consorzio Sviluppo e Legalità, a capo del quale siede Lucio Guarino, che racconta un'esperienza senza precedenti che ha aperto un percorso. Sviluppo e trasparenza sono le parole d'ordine. Nella diffidenza generale abbiamo cominciato le selezioni pubbliche per una cooperativa a cui affidare la gestione di 200 ettari di terreno e i 15 ragazzi selezionati sono stati mandati in Emilia per uno stage. Un modello che ha funzionato grazie a una leale collaborazione fra pubblico e privato. Così sono state costituite altre due cooperative, la Lavoro e non solo e la Pio la Torre. Ma non è stato tutto rose e fiori. Viti tagliate, campi di grano in fiamme, mezzi per la raccolta ritirati all'ultimo minuto. Il cammino è stato pieno di difficoltà, ma in questo frangente avviene la svolta. Sugli stessi terreni danneggiati si sono presentati prefetti, autorità, sindaci, donciotti, dice Guarino. Segnali di un progetto solido e di uno Stato più forte. All'iniziale paura e diffidenza dei cittadini si sostituiscono nuove motivazioni, semplici, quasi banali. La voglia di un lavoro pulito, messi in regola, pagati il giusto e non sfruttati come avveniva con la mafia che approfittava del loro stato di bisogno, continua Guarino. E poco importa se quelle terre erano di Riina e dei suoi compari, se spesso facevano capolino parenti di Provenzano. La prova si ha quando nel 2005, per la Pio La Torre, si presentano 400 giovani, fra cui c'erano anche infiltrati, bloccati immediatamente grazie alla collaborazione con le prefetture. Oggi gestiamo 700 ettari di terreni, produciamo pasta, vino, legumi. Abbiamo cantine, agriturismo e botteghe per la vendita dei prodotti. Dice Guarino, soggetti imprenditoriali a tutti gli effetti, esportano i prodotti in Italia e all'estero. Ed è un'eccezionale operazione di marketing territoriale, capaci di stare sul mercato, di inserirsi nel circuito del biologico, in libera terra, fino ad arrivare a Slow Food. Ora la nuova sfida. Il feudo Verbumeaudo, a Polizzi, appartenuto a Michele Greco, il papa della mafia. Fino a oggi, gestito dal suo campiere, il signor Battaglia. L'obiettivo è replicare il modello, creare una cooperativa con i giovani del posto, ma solo dopo le elezioni amministrative, per non rimanere incagliati nella campagna elettorale. L'Istituto Vite e Vino della Regione sta elaborando il progetto di sviluppo e 6 ettari saranno anche dedicati alla sperimentazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Cottone, Il Consorzio dei Miracoli, dal numero 73, febbraio 2012, del mensile I Love Sicilia.